avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. A me renderebbe felice arrivare un pochino prima la mattina davanti a questo microfono, perché vedete, quando sentite la sigla molto lunga vuol dire che io mi sto sedendo in quell'istante e adesso sto cercando di connettermi, ma lo farò quando avrò un attimo di tempo anche per respirare. Ho detto cosa mi renderebbe felice, ma cos'è che renderebbe felice chi mi ascolta in questo momento? Noi in realtà dovremmo vivere per essere felici, perché altrimenti che senso avrebbe vivere? Noi dovremmo essere educati sin dall'infanzia che la felicità non soltanto è una piacevole o impiacevole intermezzo fra momenti di mestizia, di adempimento di doveri, di giusta sofferenza, di catartica rassegnazione, ma la felicità in realtà dovrebbe essere l'esplosione costante della nostra esistenza. Voi direte, beh sai, la nostra esistenza terrena è un'esistenza limitata, un'esistenza condizionata, è sottoposta, ahimè, a delle crudeli leggi della natura, quindi noi potremmo essere vagamente felici, pallidamente felici, avere momenti di grande esplosione di felicità, ma la vita in realtà è profondamente mesta. La felicità è di un'altra vita. Bene, è un'ipotesi ragionevole su cui possiamo senz'altro aprire una discussione. Attendiamo la felicità nella vita che verrà. Va benissimo, non ho nessun pregiudizio, né un pregiudizio totalmente laicista che dice la vita finisce quando finisce il ciclo biologico, né un pregiudizio che non fa altro che pensare alla vita che verrà. Tutto può essere, tutto è plausibile, siccome nessuno ha una prova certa di quello che accade dopo che noi cessiamo di esistere biologicamente, vanno bene tutte le ipotesi. Va bene l'ipotesi che scenda un nero totale e la nostra coscienza si dissolva assieme al nostro corpo, va bene anche l'ipotesi che improvvisamente si aprono tutti i paradisi possibili, i purgatori, gli inferni, a seconda di quello che uno ha ceduto alla felicità durante la vita terrena. Già, ceduto alla felicità. E immediatamente apro un altro discorso. Essere felici è qualcosa legato al senso di colpa? Perché soffriamo di sensi di colpa quando ci siamo un attimo sentiti felici? Beh, perché gli altri non sono felici, perché la felicità è un bene prezioso, perché la felicità è esclusiva, perché la nostra felicità non può contaminare sempre gli altri, anzi molte volte ci accorgiamo di essere felici quando siamo circondati da persone meste. E allora naturalmente interviene la tecnologia. Puoi costruire anche tu la macchina psicotronica dei desideri. Per costruirla ti servirà un amplificatore audio, due fogli di rame, due cavi da altoparlante e una foto o un disegno con il tuo desiderio e due auricolari. È veramente semplice creare questo apparecchio che realizza i tuoi desideri. Prendi due cavi da altoparlante, incolla ogni disco di rame e in mezzo ad essi poni la foto o il testo con il tuo desiderio. I dischi di metallo servono da capacitatori, caricando l'etere intorno ad essi con il contenuto del desiderio, amplificando il segnale. Collega quindi le estremità opposte dei cavi, inserisci gli auricolari, accendi l'amplificatore e pensa. Questo è tutto ciò che devi fare. Ecco, l'ho trovata questa mattina su YouTube. La macchina psicotronica dei desideri. Favolosa, l'ho sognata tutta la vita. E non mi basterà un'altra vita per goderne i vantaggi. È un marchingegno fatto di due lastre di rame con alcuni condensatori, amplificatori, circuiti elettrici. Uno dovrebbe porre all'interno di queste due lastre di rame il supporto che contiene il desiderio la cui realizzazione lo renderebbe felice. Accende la macchina psicotronica e improvvisamente il desiderio si trasforma in una realtà. consiglia di fare una foto, tu fai una foto. Oggi uno potrebbe dire: ci metto la copertina dell'Espresso. Uno mette dentro la copertina dell'Espresso e si trova immerso in quel fantastico fotomontaggio di un salone regale in cui ci sono tutte le signorine che in questi giorni attizzano tanto la fantasia dei miei colleghi. E quello potrebbe essere un desiderio. Metti la copertina, ti trovi te al posto del maschio unico in quel fotomontaggio. È un desiderio lecito, il desiderio di espansione estrema della propria piacevolezza sessuale. È il primo dei desideri che uno non vorrebbe confessare. Ma rende felice questo? Cos'è che vi rende felice? Cosa vi renderebbe felice? La felicità è data dall'irraggiungibilità del desiderio. La felicità è data dall'irruzione improvvisa di qualcosa che scompone, scompagina e demolisce una triste grigia giornata, un'esistenza costellata di tristezze, di lutti. Oppure esistono delle circostanze determinanti della vita che impediscono che noi ci accorgiamo dei momenti di felicità. Esistono, a volte esistono, potrebbe essere una situazione difficile di un figlio, ad esempio, che impedisce di essere felici. In quel momento vinci all'otto, ti trovi in mezzo al bunga bunga di bunga bunga e tanto non riesci a essere felice perché pensi, che ne so, il tuo bambino che non sta bene. E già questo è un motivo. Ma esiste la possibilità di mettere nell'ipotetica macchina psicotronica dei desideri un vostro desiderio per renderlo attuale? Proviamoci questa mattina. 800240024. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella? Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita? Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita? Saresti capace? Abbiamo già fatto sentire tante volte, è un po' una furbata quello che dice Mastro Jagni e Claudio Cardinale. È facile dare agli altri le formule della felicità altrui, ma è molto difficile tirare fuori la formula, l'equazione che farebbe la nostra felicità. Difficile perché è imbarazzante. Cos'è che mi renderebbe felice? Forse in questo momento mi renderebbe felice vedere schiattare una serie di persone. Non si può dire. Poi non mi renderebbe felice. So bene che il male altrui non rende mai felice, non dà mai soddisfazione. È amara, fugace, transeunte la soddisfazione per un male altrui. Il bene altrui, sì, vedere gli altri felici può rendere felice, ma un po' rodere anche l'anima, vorrei essere anch'io felice. Guardate che è molto difficile. Noi esseri umani non sa perché e non ci poniamo mai il problema fondamentale della nostra esistenza. Cosa vogliamo per essere felici? Cosa piffero ci farebbe veramente felici? Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Sì, tutte chiacchiere, questo Into the Wild, il film di Sean Penn, scritto da Sean Penn, questo ragazzetto che attraversa le terre selvagge, questo inseguimento costante di un sogno di immersione totale nella natura, alla fine schiatta perché mangia un'erba velenosa, quindi dove ha trovato la felicità? Poteva buttarsi sotto un treno, avrebbe accelerato i tempi, ma non ci sarebbe stato il film. Sì, perché abbiamo molte volte vari luoghi comuni, varie scatole predefinite in cui collochiamo i desideri di felicità. Andate in una scuola elementare, chiedete ai bambini, anzi guardate, chiedete alle maestre: mi dai temini dei bambini, cosa farà la felicità? La felicità dei bambini cos'è? La felicità dei bambini è che tutti i bambini africani non muoiano di fame, è la pace nel mondo, è i miei genitori, si vedono tutti questi girotondi con tutto il bambino, il cinesino, l'africanino, il bianchino, il grigino, che si danno il comeback, che si danno un gran girotondo con il sole, tutti sorridono, volano gli uccellini, le farfalle. Quelle sono le raffigurazioni, le iconografie della felicità nell'immaginario delle maestre. Queste sono cose che non darebbe a nessuno mai la felicità, sembra un po' il paradiso dei testimoni di Geova. Una delle cose che più mi affascinano è quei librettini dei testimoni di Geova che mi portano a casa, è la loro rappresentazione del paradiso terrestre. Si vedono Signore e signori, felici, contenti, anche lì policromi che si abbracciano, si vogliono tutti bene, così, assieme al leone, alla tigre, al serpente boa, allo scorpione, all'elefante, al cammello, al dinosauro, adesso non lo so, sto allargando e sto costruendo in attesa che qualcuno chiami. Ecco, il paradiso testimoneggiava una rappresentazione bellissima, disegnata con quei colori a pastello che è lo stesso illustratore dei libri della dottrina della mia fanciullezza, in cui c'era Dio col triangolo in testa, con l'occhio dentro, che stava in mezzo alle nuvole, c'erano tutte le parabole, ecco, le rappresentazioni a pastello della felicità. Io su quelle sono cresciuto, io il paradiso me lo vedevo così, con gli angeli, con tutte le penne, come dei pavoni, tutti felici, tutti contenti, con Isacco che quasi è contento di Abramo con il pugnale che sta per ammazzarlo, che si apre la nuvola, esce il e la mano lo ferma. Ecco, questa era la rappresentazione iconografica della felicità. Poi siamo diventati vecchi, siamo diventati cinici, siamo diventati cattivi, siamo diventati laici a martellate, quindi queste le abbiamo messe nel derisorio delle cose fanciullesche. Ma cosa rappresenta oggi per noi la felicità? Luca, buongiorno. Buongiorno. Oh, finalmente posso prendere fiato, già questo è motivo di felicità. Sì, immagino. No, ma lei ci ha pensato questa mattina, ad esempio, cosa posso fare per essere felice? Ma guardi, io le posso assicurare che lo faccio costantemente, tutti i giorni e senza neanche far fatica. E ci riesce? Sì. Vabbè, lei è un santo, va in giro coi sandali come il nuovo assessore al comune di Roma, morto. Che Alemanno ha rifatto la giunta, c'è un assessore che gira con i sandali, non si bello, sembra un frate dal ginocchio in giù, è meraviglioso, sarà un uomo felice. Assolutamente no, poi io sono anche tendenzialmente molto agnostico, quindi la felicità la vedo molto terrena al momento. Quindi la vuole per adesso, poi l'altro se c'è meglio, è grasso che cola. Esatto, se c'è meglio. Io quello che faccio e che consiglio a chiunque è di tirarsi fuori un attimino da, vediamola così, io da una vita che faccio il manager e ho sempre cercato di far capire a tutti che la crescita costante in un mondo in cui alla fine le risorse sono limitate non è possibile. Ma lei fa il consulente aziendale, questo sembra esatto. I discorsini che fanno i consulenti aziendali bisogna capire che non per spalmare di vasellina ai poveri giorni. Dipendenti che stanno per arrivare alla trambata. No, io di solito spalmo di vasellina ai proprietari dell'azienda e cerco di far capire difficile che sono quelli crescere, che pagano quelli. Crescere e la stessa identica cosa io la vedo, io ho tre figli vedo che i miei bambini non sono quelli delle fantasie delle maestre perché non gliene freghi niente da parte del mondo. Ma è fisiologico che un bambino non gli possa fregare niente a meno che non abbia le bombe e la guerra in casa, capisci? Esatto, e quindi loro cosa desiderano? Un gioco in più domani, un gioco in più dopodomani, e siamo tutti così, siamo tutti dei bambini. Allora, se lei avesse l'acceleratore psicotronico della felicità, cosa ci metterebbe in mezzo alle lastre di rame? Mi dica una cosa. Glielo dico, quello che mi manca in questo momento, che è ormai 6 anni che non riesco a fare, è un bel giro in barca di una decina di giorni. Va bene, questo le darebbe la felicità. Sì, me la darebbe di più, ma sono già felice. Va bene. Mi darebbe la ciliegina sulla torta. Ma io sono contento quando qualcuno dice che è felice. Sono circondato da gente con delle facce da sfigati che c'è da grattarsi soltanto a passarci in mezzo. Fabrizio. Oh, buongiorno Gianluca. Cos'è che la fa felice? Ma io dico una parola che forse per te, come per la maggioranza... No, basta che non è una parolaccia, sennò mi siedono. Val d'Ottavo è un paesino della provincia di Lucca, nella Garfagnana, no? Lì c'è una segheria nel senso di falegnameria. Quindi una segheria la farebbe felice? No, io lì lasciai il camion che me lo scaricavano, ebbi 3 ore per andare a spasso. Entrai sotto un bosco, c'era un fiume e un affluente del Serchio, dove in una giornata di sole a mezzogiorno là sotto era notte, perché c'era talmente vegetazione che... E chi è apparso? No, non mi è apparso niente. Ho fatto un bagno completamente nudo in questo fiume. È arrivato un piranha? No, nessun piranha. Nessuna persona umana. Ho detto, ma pensate, se io abitassi qua sarei felicissimo. E perché non c'è rimasto? E non ci sono rimasto perché devo andare a lavorare. Sono come tutti gli occidentali. Sono non si vive soltanto di bagni nell'antro delle ninfe. È chiaro, però già cominciamo a avvicinarci. Giancarlo. Salve, buongiorno, sono Giancarlo. Ma la felicità è effimera, nel senso che non è... Certo, sennò che felicità sarebbe. Non sarebbe. È un attimo, è veramente sono momenti, e pertanto è come quelli, lo paragono a un orgasmo, nel senso che è l'unione di tante energie insieme che si sviluppano in quel momento, è l'assenza di tutto, quindi... È un'uscita dal mondo, allora, la felicità è l'uscita dal mondo. Quindi al mondo non si può essere felici. No, si può essere, avere questi momenti si può avere ed è bene ricercare. Ma scusi, anzi, se il momento di felicità è l'uscita dal mondo, vuol dire che se uno non trova la fessura per uscire dal mondo non è felice. Beh, certo, però bisogna cercarli questi momenti, perché siamo sempre lo star bene è una cosa. Cosa ci mette lei dentro la macchina psicotronica dei desideri, scusi? In questo io ci metto poter fare del bene alle persone, ad esempio può essere un invidio per esempio Maria Teresa di Calcutta, cioè questi momenti. Ma se io non la invidio per niente, posso dire, io sarò limitato e rozzo, a me mi scappello e mi inginocchio di fronte all'immensità del personaggio, ma se dovessi fare una fila di... Ma sono concreto, sincero, in tutte le mie meschinità. Cos'è che ti rende felice? L'assistenza al lebbroso sarebbe al posto numero 10, metta caso. Prima ce ne sarebbero altre 9. Però, guardi, questo lo dice una persona che non ha timore, non ha pudore di raccontare le proprie meschinità. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ti ho fatto stare in silenzio perché volevo che tu ti rendessi conto innanzitutto della tipologia e dei desideri di felicità dei nostri ascoltatori. Ricordo che Silvana De Mari è scrittrice di fantasy, tradotta in tutto il mondo, medico, saggista, il suo ultimo romanzo è L'ultima profezia del mondo degli uomini, Fanucci editore. Questa mattina qui con noi a parlare di felicità, non so perché è stata richiamata a gran coro da tutti gli ascoltatori. Ti vogliono, non so perché, non so cosa hai toccato nei nostri ascoltatori, fra lo scannamento del maiale e i racconti che abbiamo fatto sotto le feste. Però tu sulla felicità hai qualcosa da dire, Silvana, tu racconti la fantasy che in realtà è la grande metafora dei desideri non sempre appalesati degli uomini, quindi è possibile fare una rappresentazione della macchina psicotronica dei desideri attraverso la narrativa? Assolutamente sì, io le istruzioni sono molto più facili di quanto sembri e non servono le due tavole di rame. Per tornare alla felicità, prima noi dobbiamo rispondere a tre domande: è etico essere felici? È conveniente essere felici? È possibile essere felici? È etico essere felici? Assolutamente sì. Perché per e però tutto farebbe pensare il contrario. La felicità, perché uno deve nascondere la felicità? La prima cosa che ci insegnano: non ti vantare mai, stai zitto, non dirlo a nessuno, però l'invidia ti ammazza. Io sono stato educato così, mai dimostrare di essere felici, sempre lamentarsi. Tutte le emozioni sono contagiose, quindi anche la felicità è contagiosa. Se io devo fare 2 ore di coda e radio la mia calma. Aspetta, Silvana, si sente malissimo la tua telefonata. Facciamo così, solo un istante. Mi chiamate sul cellulare? Sì, ti seguiamo un attimo e ti richiama Fabrizio Intonti, perché è troppo importante quello che dici, non può essere è attentato dall'interruzione che è diabolica e antitetica ad ogni felicità. Mentre ripigliate Silvana De Mari per la collottola, sentiamo Lisa. Lisa, buongiorno. Cosa ci metti buongiorno in mezzo alle lastre di rame? No, molto semplicemente appunto chiedevate cos'è la felicità per me. Sì, una domandina così. Sì, esatto, una domanda giusta, molto leggera, no, in realtà è la domanda che mi impongo da quando so più o meno di esistere in termini proprio molto psicologici. Beh, a mio avviso... Scusami Lisa, scusa se ti interrompo, prego. Ma sii sincera, te la poni veramente, perché io se questa mattina non eravamo a vuoto di argomenti, non pensavamo di parlare di felicità, durante la giornata se ci penso bene non mi pongo mai il problema della felicità. Mi pongo il problema di quello che devo fare, di quello che posso fare, degli orari, del correre, del pensare, del accudire me stesso, del soddisfare le mie bramosie momentanee, ma questo non significa pensare alla felicità. No, io lo funzionalizzo e lo finalizzo alla mia felicità. Faccio le stesse. Ma perché sei sotto analisi, hai un maestro di vita, come mai? Spiegami. Poi ho trovato anche delle risposte anche in una religione, ma questo è stato successivo. In una religione? Quale? Sì, io sono buddista, buddismo laico, che è molto importante. Sì, va molto di moda oggi. Sì, in realtà io lo sono da più di 15 anni, per cui è una risposta che ho trovato tempo fa, l'ho trovata prima di tutto nella filosofia, poi farne un credo religioso è stato successivo. Ma che tipo di buddismo è? Solo per curiosità. Il buddismo della Sokarakai, nella mia Indiglio. Ah sì, io ti conosco centinaia. Sì, di solito quando uno viene abbandonato dal suo amore o ha un grosso problema, va lì. Ahimè, questo è un classico, sì. Infatti è quello che... E poi ti insegnano che ti puoi smutandare tranquillamente e essere felice, quindi lo fai e ti passa. È così. No, non è così. Non ma è fate così. Una specie di preghierina per ottenere il desiderio concreto. Adesso non mi ricordo come sì, si chiama. Si può non fare. Ma dimmi come si chiama quella cosa. Come si chiama? Il gonghio. Sì. Diciamo che se vogliamo riassumere in termini brevi, la nostra legge, la mia Ghecchio, che è legge mistica di causa ed effetto. Sì. E io conosco un'amica che il gonghio lo faceva per far schiattare l'ex fidanzato, è lecito, sì? No, non è lecito. No, lei diceva che era lecito. Non è lecito, questo è molto Io mi ero importante. Fatto anche un tesserino finto, volevo andare a vedere un giorno, poi all'ultimo momento mi sono fermato. Sì, mi faceva ridere sta roba del gonghio a me. Vabbè, comunque no, tu sei felice perché sei diventata buddista e mi fa piacere. Però, vedi, io non parlo della mia felicità come buddista, parlo di quello che intendo come felicità, proprio come uso una parola che può essere un po' inadeguata, come armonia. L'armonia come costruzione di un umanesimo comunque sì, però stai leggendo adesso, scusami, il tuo manualetto del gonghio del buddismo, tu di qualcosa che pensi te, perché questo, l'ho sentito dire a almeno 30 persone nell'ultimo anno, tutte le amiche romane, che è una sorta di va molto di moda e mi fa piacere se ottiene il risultato, ma dicono sempre le stesse cose. Poi in realtà sono persone normali, non fanno nulla durante il giorno per essere felici. Attenzione, se non andare alle riunioni del gonghio. Poi non voglio comunque poi dirottare sul buddismo, perché è un discorso un po' diverso. Sì, che poi se sento un buddista si mette le mani nei capelli, comunque. No, io ho criticato anche la mia organizzazione più volte, ne sono entrata e uscita, pratico il buddismo con tutti i miei criticismi, quindi su molte cose... Vabbè, non mi sembri tanto felice, diciamo la verità, dai, se no non stavi... Il punto è un altro, io ti faccio un esempio, guarda, adesso, che sto attuando adesso di cosa vuol dire essere felici per me. Io adesso sto andando a fare un colloquio per un assegno di ricerca, io ho 41 anni e mezzo, praticamente 42. Ti danno i soldi, sei contenta? E sono al mio bivio, no, tra scegliere un lavoro con una remunerazione molto alta, un posto manageriale di responsabilità, in un ambito tra il commerciale e lo scientifico, io sono una biologa, piuttosto che ritornare nel mondo della ricerca. E morire di fame? E morire di fame, esattamente. Ma il gonghio cosa ti suggerisce? Il gonghio in che direzione lo stai facendo? Per avere cosa? Il gonghio non è un'ancora di salvezza, sono io che devo decidere, non mi devo affidare a qualcun altro. Già, hai deciso o no? Io ho deciso, è stata una decisione non semplice, perché ovviamente sul piatto della bilancia. E cosa fai allora? Tutto, si mette la felicità. E cosa fai? Allora dimmi la risposta. La felicità materiale. Io vado a fare ricerca, perché mettendo sul piatto della bilancia quella che è una felicità materiale, la felicità che mi procura. Rinuncia al denaro e scegli la ricerca. Che mi appassiona. Sì, ma con una logica, che è appunto quella che risponde alla tua domanda. Perché? Perché io mi sento felice se costruisco la società, mia piccola sì, società. Sì, ok, sono belle parole queste. Ma è chiaro che nessun mistico buddista direbbe mai voglio i soldi, i quattrini, il benessere e il pelo. Dirà sempre voglio il benessere dell'umanità, la felicità e l'armonia. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Sono tre venditori di lubrificanti industriali. The Big Kahuna. Sono in un albergo, attendono i clienti, ognuno pensa che quello sia l'affare che ritira sulle sorti la loro società, e parlano e discutono sulla felicità. Per loro la felicità è legata al lubrificante industriale. La vostra felicità a cosa è legata? Abbiamo provato con la macchina psicotronica dei desideri presa da YouTube, due lastrine di rame con degli amplificatori, condensatori, circuiti elettronici, ci mettete in mezzo un supporto che contenga la rappresentazione del vostro desiderio di felicità e quello si realizza. Cosa ci mettereste voi fra queste due lastre di rame? Cristiana, cosa ci metterebbe? Allora, buongiorno Nicoletti, intanto complimenti per la trasmissione. Ecco, qua uccide la mia felicità. Sono una appassionata di Radio 24, in particolare la sua trasmissione. E le dà felicità? Beh, sicuramente gli dà un po' più di tranquillità nelle mie corse quotidiane, questo sì. Perché corre? Appunto, Nicoletti, parliamone. Ma no, lo dica, risponda, parliamo. Perché quello che io chiedo in realtà è di fermarmi, cioè di rallentare la mia quotidianità che è fatta di lavoro, bambini, lavoro. Poteva pensarci cose prima di cedere la lussuria. Sono felicissima, ma per carità, no. No, il punto è che ogni tanto bisognerebbe fermarsi. Beh, questo lo dicono tutti, è una baggianata che ci sentiamo dire dalle non amiche e dagli amici. Non è una baggianata, mi creda, non è una baggianata. Ma cosa la farebbe, poi... cosa le farebbe felice? Vorrei sapere adesso, Cristiana, in questo momento. Rallentare non fa mai felice. E non è così banale, perché in realtà anche quando uno va in vacanza è capacissimo magari... Ma la vacanza è un incubo quando ci sono i figli, non è una vacanza. Uno spera sempre che finisca prima possibile e torni a lavorare. Quando mai la vacanza è felicità? Ma ci sarà stato un momento dicibile alla radio nella sua vita in cui gli si è aperta la fessura anche a lei e finalmente ha visto la felicità? Può essere tranquillamente un momento di tranquillità dove posso essere anche in casa con i miei figli. È quello, quando si muore saremo tranquillissimi dentro la cassa, che pensi lei? Non è questo, secondo me. Non può rendere felice la tranquillità. La tranquillità assolutamente sì. Imparvo a vivere tranquillo. Ma la felicità, secondo me, è un fulmine che arriva a ciel sereno e ci annichilisce. Quella è la felicità. Mi creda, allora, intanto non è niente di materiale per quello che riguarda me. Ah, è una cosa spirituale. No, per me è materiale. Esatto, è uno stato d'animo, è la ricerca di uno stato d'animo che può, le sembrerà una cosa banale, ma ha a che vedere con la mia quotidianità e probabilmente forse anche il mio modo di essere, perché a questo punto io non lo... Ma si fermi in una vineria, non lo so, ogni sì, tanto. Il bicchiere di vino, così a quel punto mi fermo perché è il bicchiere di vino che mi fa fermare. No, non è così. Non è così. Vabbè, anche lei appartiene anche lei a qualche corrente mistica, a qualche... Assolutamente no. A dei maestri di vita. Altri, io sono gelosa della signora che ha parlato prima, che ha trovato la felicità. Ma guardi, nel pieno... buddismo. In realtà non ha a che vedere, secondo me, con cose esterne, con la religione, perché se ci fosse una religione vincente che desse la felicità a chiunque, avrebbe... Aspetti. No? Il mistico, nella sua sofferenza, nella sua ricerca, è una persona che comunque ha abbandonato i cascami materiali che ci rendono infelici. La via spirituale è una via che comunque porta alla felicità, la realizzazione spirituale. Ma a quel punto può essere una religione piuttosto che un'altra. Sì, sì, è un'ascesi, è un esercizio quotidiano, è una cosa che massacra abbastanza. Noi siamo pigri, quindi vorremmo che la felicità arrivasse, apriamo la porta e improvvisamente scompare il mondo e quel momento siamo felici. Francesco. Buongiorno Nicolè, io posso raccontare un episodio proprio recentissimo di che cosa intendo io per felicità. Mi piacerebbe che vorrei una cosa concreta, perché tutti parlano di universi, rallentare, fermare i ritmi. Niente concretamente. Pindarici. Ieri sera, malgrado la stratosferica offerta televisiva di migliaia di canali, Sky, digitale, abbiamo spento tutto. Abbiamo tirato fuori il Monopoli, che era impolverato da almeno 20 anni, e ci siamo messi io, mia moglie e il mio bimbo di 6 anni a giocare a Monopoli, e lui, malgrado fosse la prima volta che giocava, ci ha letteralmente spennati. Ed è stato veramente un bel momento di felicità. È bello, cioè, è bello capire quando... nostra vita. Sì, sì, non lo è capisco. L'unico della nostra vita, però è stato un bellissimo momento. Lei ha capito che per lei è passato il momento. Suo figlio prenderà il suo posto. È ora che si mette da parte. Questo è un momento felice. È una giusta e concreta e lecita rassegnazione. Quindi questo è un momento di felicità. Il momento che capisco che mio figlio è una realtà, è un'entità, e che io ormai faccio parte del passato, potrei anche essere felice. Silvana De Mari, l'abbiamo ribeccata. Eccomi. Ora allora, sente benissimo. Recupera benissimo. Il tempo che ti ho mangiato. Benissimo. Allora, in primo luogo, è etico essere felici? Sì. Perché la felicità totale del mondo è data dalla somma delle felicità individuali. In più, tutte le emozioni sono contagiose. Quindi le persone felici rendono più felici tutti coloro che incontrano. Di conseguenza per noi è infinitamente più etico cercare sempre di essere più felice possibile. Come si fa a raggiungere la felicità? Attenzione, ognuno ha la propria, quindi se io voglio aggiustare il mondo, il mio primo passo non è sbattermi per procurare da mangiare ai bambini africani, perché altrimenti lì mi sto sacrificando, quindi sto rendendo infelice me stesso. Il mio primo compito è rendere felice me stesso, cercando la felicità dove io ho il mio talento. Se desiderate quattrini, La vostra felicità è nel fare quattrini, siete destinati a diventare Bill Gates, creerete denaro per voi e per il mondo, creerete lavoro per voi e per il mondo. Se vi dà felicità curare le brosi, è divertentissimo curare le brosi, scherzi a parte, con due chemioterapici si ottengono risultati spettacolari. Tu l'hai fatto, amate, vero Silvana? Sì. E amate l'Africa e l'India, ma perché vi piacciono? Perché vi piace essere lì, perché vi diverte essere lì, perché ci volete stare, curate le brosi, diventate Albert Schweitzer e Madre Teresa. Però attenzione, Albert Schweitzer è uno che si divertiva, a lui piaceva da pazzi stare lì, si era portato l'organo, suonava Bach, era contento come una Pasqua. Quindi il mio primo compito, il mio primo dovere di essere umano è l'egoismo nel senso più alto del termine. Mi è stato affidato il mio ego, se Dio esiste sono un pezzo della sua creazione, se Dio non esiste che se ne frega, maggior ragione, il mio compito è rendere felice me stesso. Quindi Silvana dice che la mortificazione non è la via della felicità. Per carità di Dio, non scherziamo. Inoltre è spiegato benissimo nel buddismo, è spiegato benissimo nel Vangelo. La felicità, l'energia, la gioia non sono tolte. Io ne ho una fetta più grande solo se tu ne hai una fetta più piccola. È la capacità di moltiplicare i pani e i pesci. Quando manca il vino alle nozze di Cana, bisogna festeggiare le nozze. Tra un po' quest'uomo e la donna si uniranno e nel piacere Dio diventerà ancora più felice. Non è che Gesù dà un altro il suo bicchiere di moscato e resta senza. Lo moltiplica, che ce ne sia per lui e per gli altri. Il denaro si moltiplica, che ce ne sia per me e per gli altri, se sono in gamba, se non solo lo squaletto idiota, ma lo squaletto idiota un povero demente. L'allegria si moltiplica, la gioia si moltiplica. I sistemi, tra l'altro, più terra a terra per moltiplicare l'allegria e la gioia è l'arte. La musica, tutte le volte che ascolto Mozart, non è che Mozart ci rimette qualcosa. Tutte le volte che rileggo Dante o Shakespeare, non è che Dante o Shakespeare ci rimettono qualcosa. Noi abbiamo questi sistemi che sono anche facili adesso da tenere in tasca, perché in qualsiasi momento noi possiamo aumentare la nostra energia. Lato B, conviene essere felici. Anche quello rende felice. Ma certo, noi dobbiamo sempre avere in tasca le monetine, cioè la capacità di renderci rapidamente felici in pochi secondi, anche se siamo in coda alle poste. Poi se mi date due minuti vi parlo della coda alle poste. Conviene essere felici? Sì. Che cosa vuol dire essere felici in termini biochimici? Avere cortisolo basso e avere serotonina e endorfina alta. Il mio sistema immunitario funziona di più, io riduco il rischio di sviluppare malattie degenerative, riduco il rischio di sviluppare una demenza e ho una sopravvivenza aumentata. Non è solo che campo più a lungo, è che campo dannatamente meglio. L'infelicità ha... Quindi l'essere umano che tende al godereccio ha una longevità sicuramente più felice? L'essere umano felice. Se il godereccio lo rende veramente felice, senz'altro. Se col godereccio sta malamente riempendo dei buchi, no. Se il godereccio ti rende veramente felice, sì. Dipende da che cosa... Purché non sia... Ho capito cosa dici, Silvana, che non sia una compensazione. Tu simuli una vita epicurea, godereccia e sprocedata perché devi nascondere delle falle enormi dentro te stesso, nella tua famiglia, nella tua compattezza, nelle tue sicurezze, quindi fingi di essere Sardanapalo. Ma se lo sei veramente, sei felice, se no altrimenti prendi in giro te e gli altri. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Dovrebbe essere felice. Il suo compito non è questo. Chi gli ha detto che si viene al mondo per essere felice? Dice Origene nelle sue omelie. Extra ecclesiam nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza. Extra ecclesiam nemo salvato, fuori dalla Chiesa nessuno si salverà. Salus extra ecclesiam non est, non c'è salvezza. Adesso vi descrivo un mio recente momento di felicità che chi mi segue su Facebook vede immortalato nel mio profilo. Ieri è passata a casa mia Maria delle Acciughe, che è un personaggio della Guardiana del Faro di Barbara Alberti, che è una signora che racconta questi suoi amori con un venditore di acciughe. È passata un attimo, doveva cambiarsi perché doveva andare a un concerto. Aveva un concerto che c'era ieri al Santa Cecilia di un pianista sommo, sublime, Kissin, un ragazzino che suona come un invasato. Confronto a Levi sembra un suonatore di organetto dentro la metropolitana, cosa che in realtà lo è in assoluto, però di fronte a Kissin scompare. Maria delle Acciughe era normalmente vestita per andare a sentire il grande pianista, si è vestita da pianoforte. Ha tirato fuori un vestito di Ferré, bello, vintage, della madre, di seta, che era a strisce bianche e nere come i tasti di un pianoforte. Era felice, le ho fatto una foto sul mio trono zebrato, altro luogo di grande felicità, nella composizione delle linee sotterranee, la felicità di casa mia, e oggi ho messo su Facebook Maria delle Acciughe vestita da pianoforte, pronta a farsi suonare dal maestro Kissen, e trovo quello sia stato un momento di favolosa felicità. Ma io vorrei, perché me lo stanno chiedendo tanti sempre su Facebook, che Silvana De Mari mi raccontasse dove si trova la felicità nella coda delle poste, perché è uno dei momenti di maggiore angustia nel quotidiano di ognuno di noi. Silvana De Mari. Bene, lo rimando di un minuto, non di più, lo giuro, e prima vi racconto dove si trova la felicità ovunque, all'interno della nostra testa. Come dice Buddha, noi siamo quello che pensiamo di essere. Questo sconcetto, il buddismo, Buddha ci arriva perché sta da schifo, attraverso il dolore. Lui se lo impone da solo, con vari sistemi da yoga, con la fame, eccetera, eccetera. Chi ha avuto un gran colpo di fortuna, perché ci ha pensato Hitler, è stato un tizio che si chiamava Viktor Frankl. Viktor Frankl, che era un neurologo in quel di Vienna, cerca di opporsi allo sterminio dei malati mentali, ebreo, a un certo punto parte per il campo di sterminio. E lui, dal fondo del suo campo di sterminio, scopre le regole della resilienza. La resilienza consiste nel fatto che all'interno della mia testa ci sono solo io e io devo imparare a essere felice da fermo. Nessuno può dirmi che cosa c'è all'interno della mia testa. Noi non sempre possiamo scegliere quello che la vita ci mette davanti, ma attenzione, noi possiamo sempre scegliere come affrontarlo. Noi non siamo turaccioli in balia delle nostre emozioni, della storia, del nostro passato, dei nostri traumi. Noi abbiamo la scelta. Il libero arbitrio non riguarda solo le nostre azioni, riguarda le nostre emozioni. Nel fondo del campo di sterminio di Auschwitz, Viktor Frankl capisce che deve tenere l'attenzione concentrata sulla bellezza e lui resta 20 minuti con la sua sbobba in mano a guardare l'assoluta bellezza della testa di aringa che ha nella sbobba, perché è simmetrica, perché si sono formati milioni di anni, ci sono voluti milioni di anni perché si formasse, e lui immagina questa aringa nel mare, in mezzo alle balene, sotto cieli infiniti, e tiene l'attenzione concentrata lì, e tiene l'attenzione concentrata sulle stelle, quando non può vederle, sa ugualmente che ci sono, tiene l'attenzione concentrata su se stesso, che torna a Vienna, lui sarebbe sceso da tram, avrebbe attraversato la strada, poi avrebbe fatto le scale, avrebbe suonato la porta, sua moglie l'avrebbe aperto, lui l'avrebbe guardata e avrebbe detto sono tornato. E poi è successo, lui è stato liberato dal campo di sterminio, dopo che se ne è fatti tre, è tornato a casa, ha fatto le scale, ha suonato la porta, lei non c'era. Tre giorni dopo il suo arresto, benché fosse ariana, la moglie era andata a consegnarsi alla Gestapo chiedendo di essere deportata insieme al marito, e lei non ce l'aveva fatta. E anche allora Viktor Frankl ha immediatamente spostato l'attenzione su qualsiasi cosa bella che aveva sotto mano. Allora noi siamo alle poste e abbiamo da fare due ore di coda alle poste. Perché? Perché esistono le poste. Ci sono nazioni come l'Uganda o lo Zimbabwe che sono talmente allo sbando che le poste non ce l'hanno. E dove non hai le poste? Sì, ma non c'hanno manco le vecchie che ti passano avanti nella fila facendo finta di niente. Ma dove le poste non ce le hai vuol dire che sei in una nazione che non ha un'economia e non ha un futuro. Noi abbiamo le poste. Allora, se dal fondo dei loro lager, Viktor Frankl e Primo Levi, o dal fondo dei loro gulag, Natan Sharansky e Alessandro Solženicyn, si fossero sentito dire «Ehi ragazzi, volete fare due ore in coda alle nostre poste? Davvero, dove devo firmare? Temperatura normale». Quindi devi sempre pensare al peggio, come dicevano a me, certo. Mangia la minestrina che tanti bambini muoiono di fame. No, mangia la minestrina e goditela, e senti il piacere, perché ma faccia schifo la minestrina col dado. Hanno superato, anche il dado qualcuno l'ha fatto, poi siamo alle poste. Allora, il nostro compito è rendere quelle due ore il più felice possibile, questo è il nostro compito, anche perché noi abbiamo sempre il nostro avvoltoio, il nostro angelo custode sulla spalla, che è la coscienza della nostra morte, quindi sono l'ultima volta della nostra vita che viviamo quelle due ore, dobbiamo viverle al meglio, dobbiamo sempre avere in tasca le monetine, possiamo avere l'iPod e sentire la nostra musica, tiriamo fuori l'agenda, è l'agenda o il nostro quaderno, la macchina dei desideri. Possiamo usare l'agenda, per esempio, per scrivere una filastrocca, mare in bonaccia, mare in tempesta, io sono qui che mi gratto la testa, dalle filastrocche potete passare alle poesie. Silvana, scusa, perché siamo quasi vicino alla fine, volevo però farti una domanda. È meraviglioso questo, questa è una formula di trasformazione, un'alchimia in cui trasformi il quotidiano in qualcosa di fantastico, benissimo. Però così ci accontentiamo sempre del quotidiano, cerchiamo sempre nelle pieghe del quotidiano comunque le fonti di soddisfazione. L'agenda, il tuo libro dei desideri, scrivi sopra quello che vuoi. Per esempio, io sulla mia agenda per 12 anni ho scritto voglio diventare scrittore. Poi devi visualizzarlo, Tu devi vederti mentre firmi le copie, o quello che è il tuo sogno. Ognuno di noi deve avere le idee chiare su cosa sono i suoi sogni. Prendete l'agenda e scrivete 10 desideri. Dalle cose enormi, voglio diventare scrittore, voglio avere una casa con piscina. Volete la casa con piscina? Il vostro desiderio è la casa con piscina. E quanto tempo ci vuole, secondo te, per realizzarli? Di questo non dipende, ma se noi non molliamo mai, li realizziamo. Ma il punto fondamentale è che per realizzarli io devo far giocare dalla mia parte, nella mia squadra, il mio io inconscio, che è molto più grosso, molto più forte, molto più antico e molto più intelligente del mio io razionale. Guarda, allora facciamo così, guarda, Silvana, la sigla ti interrompe e io devo smettere, se no mi multano e mi fanno delle sanzioni terrificanti e divento infelice. Siccome c'è, vedo, tonnellate di persone stanno scrivendo e tu hai lanciato una sfida, ci diamo un mese di tempo. Segnatevi oggi l'agenda dei vostri 10 desideri per essere felici. Tra un mese esatto verrà Silvana De Mari, leggeremo insieme e direte cosa avete risolto nella vostra fila delle poste o nel vostro cucchiaio di minestrina tiepida per essere felici. A lunedì. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.